Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È una serata triste per me, perché mi devo congedare da ascoltatore della zanzara. Ma è perché una volta mi divertivo. Perché un programma condotto con sagacia, con molta intelligenza, però ultimamente il livello è troppo basso. Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Io comincerei da dove abbiamo iniziato ieri, cioè da Vittorino Casamonica che canta una canzone qui alla Zanzara, perché è stato un momento veramente importante, molto importante, molto importante. Qualcuno ci ha accusato, anche voi avete ospitato i Casamonica, anche voi avete fatto, come dire, no? Siete come Vespa, avete ospitato, no, una famiglia. Qualcuno pensava fosse Lau Casadei, e invece era Casamonica. Qualcuno ha scritto avete invitato quello delle sagre, eccetera, invece no, è un signore che... cugino. Sì, tra l'altro si sono anche incazzati. No, veramente questo qua è il nipote, non è cugino, è il nipote di Vittorino. Allora, qualcuno si è incazzato della famiglia Casamonica, lo stesso Vittorino, perché gli abbiamo chiesto per chi ha votato. Per chi ha votato. Cioè, non vi potete fare domande inopportune. E no, amico mio, ti abbiamo fatto cantare, abbiamo detto che sei discriminato per il tuo cognome. Cioè, abbiamo creduto a questa cosa qua. No, ci crediamo? Tu, io non ci credo per niente. Ma io un po' ci credo. Se uno va a presentarsi e ti dice sono Casamonica, tu magari no, dici. Ma insomma, se per esempio, se un Casamonica vuole affittare casa tua, Parenzo, tu che fai? Cioè, se uno che si chiama Casamonica, dimmi la verità. No, dimmi la verità. Se uno che si... Farei come per chiunque, andrei a vedere la fedina, se è solvibile, se è la fedina penale. No, ammetti che è solvibile, sarà solvibile sicuramente. Ah, sì, sicuro è l'unica cosa che puoi mettere. No. È l'unica cosa che puoi mettere. Esatto. Dimmi la verità, affitteresti casa tua a uno che si chiama Casamonica? Dimmi la verità, sinceramente. Beh, francamente, preferirei qualcuno che si chiamasse tipo Cruciani, ecco, non l'affitteresti. Lo vedi che hai un pregiudizio anche tu? Lo vedi che hai un pregiudizio anche io tu? Io sono pieno di pregiudizi. Oh, dillo, non affitteresti la casa a uno che si chiama Casamonica? No, ma questo non è vero. Beh, allora, come no? Ma che vuol dire verificheresti che se si chiama Casamonica preferiresti non affittargli la casa? Si chiama così. Verificherei sicuramente. Il fatto, ammetto che non solo perché si chiama Casamonica, il fatto che sia il nipote che il nonno. No, ma uno che si chiama Casamonica la casa non gliela affitti, dai. Canta Vittorino Casamonica canta Peperoncino. Tu dammi il peperoncino e saprai che quel sapore è fatto per noi, perché mi piglia fino qua giù e la mia pace sei tu. Allora, ieri Vespa ancora sotto attacco, perché pare che lo attacchi pure il direttore generale della RAI. Qualcuno vuole regolare i conti con il signor Vespa, che io difendo a spada tratta per quello che ha fatto, anche nei modi in cui lo ha fatto, anche nei modi in cui l'ha fatto. Anzi, doveva fare il plastico della carrozza, il plastico dell'elicottero, il plastico del funerale. Mi è mancato un po'. Ha ospitato l'assessore alla sicurezza del comune di Roma Sabella, il quale lo ha criticato. La televisione pubblica non deve mirare allo share, non deve mirare agli ascolti. Di questo problema non si deve più parlare. Cioè, bisogna stendere, capito, un velo pietoso sopra questa storia. Bisogna fare silenzio, silenzio, silenzio su questa storia. È impazzito, Sabella. Se la trasmissione di ieri fosse andata in onda su una TV privata, io non avrei avuto nulla da dire, né io né credo, guardi che Buscetta, né credo nessuno, no, mi faccia più sulla Rai, il problema è che è andata in onda sul servizio pubblico. Non deve mirare, secondo me, solo ed esclusivamente allo share, anche perché lei non ha bisogno di cercare share. Grazie a Dio, è il maestro, è vero che senza share ci licenzierebbero, non ha bisogno di cercare share, ha bisogno anche di dare informazione, di dare dei messaggi positivi alle persone. Ai messaggi positivi. Cioè, la cosa incredibile è che quando Berlusconi diceva a qualcuno, no? Criticava i talk show, diceva beh, no, bisogna anche dare buone notizie. No, vero. Tutti gridavano allo scandalo. Vero. Adesso che un assessore del comune di Roma, per non parlare del sindaco di cui parleremo tra poco, quella vergogna incredibile che il sindaco di Roma Marino, che bisogna dirlo dopo quello che ha detto oggi, se lo ha detto seriamente, beh, siamo quasi al manicomio, siamo quasi all'ambulanza. Allora, un assessore del comune di Roma che si permette di dire, beh, però bisogna dare solo buone notizie, non bisogna solo mostrare cose negative, no? Troppa pubblicità. Cioè, vuole dare la linea editoriale a Porta, beh, sarebbe successo l'inferno. Ma andiamo al sindaco di Roma. Il signor Marino oggi che cosa ha detto? Una cosa incredibile. Ha detto che, a parte che ha detto che non guarda Porta a Porta, che bisogna rottamare Vespa, è già questo, il fatto che il sindaco di Roma dica che bisogna rottamare un programma è già ridicolo in sé. Però questa è un'opinione di Marino e chi se ne frega, se la vedrà con Vespa. Non è particolarmente paraculo poi Marino, che non ha grandissima popolarità in questo momento, e si rende nemico per l'eternità Bruno Vespa, però sono cazzi suoi. Ma dice un'altra cosa, aggiunge un'altra cosa, mi sembra, in un'intervista alla Stampa, al quotidiano La Stampa di Torino. Cosa dice? Dice che guardare Porta a Porta è peccato, e che bisogna andare a confessarsi. Ora, siccome non ha smentito, credo che non ha detto è un gioco, stavo scherzando, eccetera, eccetera, non era qui alla Zanzara, era al quotidiano La Stampa, beh, amici miei, è una frase proprio da... non so nemmeno come giudicarla, francamente. Giudicatela voi. 800 24 00 24. Marino che dice: chi guarda Porta a Porta fa un peccato e deve andare a confessarsi. Tra l'altro Marino è pure un cattolico, per cui non è che può giocare e scherzare sulla religione, no? Salvini dice: ospiterei un profugo nel mio bilocale. Peraltro l'aveva già detto da noi lunedì questo, che avrebbe tranquillamente ospitato un profugo. Agorà questa mattina. Accogliere chi scappa dalla guerra? Sì, subito, domani mattina, anche a casa mia. Guardiamo dove c'è la guerra. In Siria c'è la guerra. Un profugo? Ma ci mancherebbe altro. Ho un bilocale, quindi non è che potrebbe... Un divano letto, lei dice, lo ripeto. A proposito della giornalista ungherese che ha sgambettato quel profugo, beh, senti Marcato, Lega Nord, dice che... Sentiamo. Ma voi avete visto i paesi arabi africani incazzarsi, scendere in piazza perché lì massacrano i bambini, tagliano le gole, infilzano le donne, stuprano bambine? Vedete i paesi africani arabi incazzarsi per questo? No, però noi ci incazziamo per i reporter, perché noi siamo bravissimi a darci le martellate, siamo... per i reporter che ha fatto lo zambetto. Ma stiamo scherzando? Noi siamo un'Europa debole e noi ci invaderanno e non rimarrà nulla di noi. Però scusami caro Marcato, mi vuoi dire cosa sostiene Marcato? No, mi vuoi dire qual è la correlazione tra l'uccisione dei cristiani e non so di chi nei paesi arabi e lo sgambetto dato dalla giornalista ungherese a quel profugo con relativo pianto del figlio, no, del ma bambino? È chiaro, per Marcato quello sgambetto è un modo per difendere l'identità non ha detto affatto bene a sgambettare il profugo, dai. Non ha detto questo. Marcato, ricordiamo, dopo. È un esponente della Lega molto importante, perché il presidente è un veneto, un leghista veneto molto tosto, non è, è a Padova, è potentissimo. Vabbè, è un uomo di Bitonci, è presidente del Consiglio Comunale di Padova. A proposito, Bitonci vuole vietare la vendita, vuole chiudere un kebab baro a Padova. Sì. fino alle 14, semplicemente perché ci sono state delle risse davanti al suo locale. Sì. Allora io dico una cosa, siccome questa qua, io appoggio Bitonci su diverse cose, questa cosa qui mi pare una cazzata pazzesca, allora dovrebbe chiudere, bisognerebbe chiudere tutti i locali dove ci sono risse. Ma cioè, certo, se c'è una rissa di fronte a una birreria gestita da italiani, da padovani, sì, la chiuda immediatamente il giorno dopo, o comunque limiti l'orario alle 18, alle 17, così beh, vediamo se lo fa. Ma abbiamo tra noi uno dei preti più ribelli d'Italia, uno che non si arrende al renzismo dilagante, Don Paolo Farinella, buonasera. Ma figuriamoci, buonasera, se beh, io sono il prete più più rispettoso e ortodosso del mondo, appunto lei è il prete più rivoluzionario che c'è, il prete più birichino, diciamo. Beh, così, ma la mettiamo tutta con questi tempi di pazzi. Senta, ma lei Vespa lo ha visto? Che cosa? Lei Vespa lo ha visto? No, guardi, in genere non vedo la TV. In genere non vedo, ma tantomeno non guarderei mai Vespa. Perché? Ma così, sia perché lo vedo come funzionale al potere, perché è la terza camera del governo. Vabbè, questo si è sempre è detto. È una valutazione puramente politica la mia. Ma non, proprio non le sta simpatico. Non nessuna censura. Si ricorda che abbiamo protestato, tutti se ne sono rimasti scandalizzati dall'epurazione dell'editto bulgaro del... Beh, e qui siamo di fronte alla stessa cosa, che è una questione di buon gusto che Vespa... Ma lei Vespa fatto, come lo giudica Vespa? Vespa è un servo proprio patentato del potere, del governativo. Un servo, un leccaculo, insomma. Ma non mi pare molto governativo. Esatto. Un leccaculo. E il fatto che abbia ospitato Casa Monica la sorprende? No, non mi sorprende, perché è coerente con quello che fa sempre lui. Cioè? Guardi, da Cogne in giù, guardi che cosa... E poi, come dire, ha ospitato, ben peggio ha ospitato. Ha ospitato Berlusconi con Lutri, che ha ospitato il peggio del peggio. E poi comunque, cioè lei sta dicendo ha ospitato Berlusconi, Dell'Utri, altri. Ma poi ascolti, una città di Roma, cioè dei politici, da cominciare da Marino al governo o al ministro degli interni, che permettono che a Roma avvenga quel funerale. Ma che devono fare? Scandalizzano. Ma ognuno, lei è un prete, ognuno fa il funerale come vuole. No, che fanno avvenire quella sceneggiata pubblica. Scusi, ma lei da prete avrebbe officiato quel funerale? Non avrebbe No. E quel prete va cacciato, secondo lei? Non so che cosa deve, non lo lì non capisco, non so le motivazioni e le ragioni, però non l'avrei fatto, o quantomeno avrei chiesto la massima assoluta moderazione nell'espressione pubblica, e comunque non avrei mai permesso che si mettessero sulla facciata della chiesa quelle fotografie. Fermi tutte, traffico. Il traffico è il problema. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Allora, Don Paolo Farinella è con noi dalla diocesi di Genova. Caro Parenzo, torna alla Zanzara Don Paolo dopo diversi mesi in cui è stato anche un po' male. Senta Don Paolo, ma lui è sempre un prete, sì? Sì, perché tu contesti il fatto che un prete possa dire certe cose? No, avendo sentito anche i suoi comizi, io non le chiamo omelie quelle che abbiamo sentito dalla sua chiesa, li chiamo comizi, non omelie. Sono invettive, sono attacchi. Sono omelie. Sputando. Come? Le gustibus non esti sputando. No, assolutamente. Senta Don Paolo, ma Marino che dice che porta a porta, guardare porta a porta è un peccato, e che ma bisogna andarsi a... cioè veramente bisogna mandare al manicomio? è da manicomio Marino. Sì. Lei da prete può dire che è una cazzata pazzesca. Solo per aver detto questo. Cioè, una boiata infinita. Andrebbe cacciato solo per questo. Cioè, il consiglio comunale del comune è pieno di inquisiti. Sì. Di collusi di con la mafia. Il Parlamento è pieno di inquisiti e di mafiosi. E andiamo a dire queste cose qui, ma veramente non c'è più religione. Ma poi io le dico una cosa, ma Marino come fa a, come dire, a ma chi è il Papa? Cioè, non è che... No, ma a parte questo, ma a parte il fatto di strumentalizzare la religione, ma un'affermazione del genere veramente meriterebbe l'ergastolo e buttare via la chiave. Ma sì. Vabbè, andrebbe comunque cacciato, su, solo per questo, dai. Sì, ma è una cosa veramente... assurda. Ma poi poverino, la confessione, poverino, deve cercare di tirarsi su in qualche modo. Beh, tirando in questo caso non è che si tira su, Sì, ma lui ci prova, come dire, per questo va sempre più giù. Ma lui crede di tirarsi su, anche per le stupidaggini che ha fatto, cioè non è tornato dagli Stati Uniti quando Roma fondava. Però scusi, Don Paolo, io voglio chiedere una cosa, ma perché lei ce l'ha tanto con Renzi? Lo chiama il Berluschino di Rignano, una specie di dittatore, eccetera eccetera, perché, ma guarda, perché che cosa così sta avvelenato, cioè sta come governo sta modificando una costituzione, sta abolendo il senato a modificare, per cui sta facendo un colpo di stato il tessuto come dire medio basso del mondo operaio. Sì, sta facendo un colpo di stato, sta togliendo tutti i diritti. Ed è veramente una, come dire, bisogna restare indifferenti a questo, cioè e che bisogna ha fatto, fare? Quello che sta facendo lui, ci ha provato Berlusconi e non c'è riuscito, ma quando c'era Berlusconi c'erano le piazze piene, Cofferati ha portato in piazza per l'articolo 18. E che bisogna fare? Cioè, se ci fosse... Adesso questo passa come sta facendo, una passeggiata. E dunque che bisogna fare? Se qualcuno, che ne so, uccidesse il tiranno, lei che direbbe? Beh, Paolo VI l'aveva previsto, questo, cioè? Nel senso, Paolo VI l'aveva previsto nel 67, dicendo tranne in caso di una tirannia continua, sì, eccetera eccetera, che quindi con tutta la tortuosità di un'affermazione pontificia afferma che in certi casi l'uccisione del tiranno potrebbe essere anche eticamente lecita, visto che continuamente si ammazzano persone a non finire, no? Per cui diciamo. Però no, io non sto dicendo questo. Lei sta dicendo che siccome una tesi, una tesi teologica. Che Vabbè, ho capito. Però San Tommaso lo ammette tranquillamente. Però dico, lei si riferisce, chiama Renzi un tiranno praticamente. Sì, io lo chiamo un tiranno su un piano politico. Non è che ci toglie gli strumenti, per appunto, esempio adesso, 30 l'ultima, ieri o stamattina, sì, si sono votati 40 milioni, non so quanti siano per i partiti, e li hanno tolto agli esodati, non mi dica che... No, la vergogna dei partiti è questa, i partiti praticamente, siccome ancora non hanno, diciamo, gli statuti a posto, gli statuti in ordine, nonostante questo soldi, hanno incassato il finanziamento pubblico, soldi vostri, oltre 40 milioni, ma io non vergogna. Capisco perché Don Farinella non appende la tonaca al chiodo e non si candida con l'opposizione con i 5 Stelle. Ma scusi, con... ma io sono un cittadino, ho diritto di manifestare la tonaca al chiodo. Può manifestare soltanto chi è che è in Parlamento. Che manifesta solo, dice delle cose terribili, va benissimo. Non saranno carità terribili, però ho il diritto di dire delle cose terribili. Cioè lei guida una comunità di fedeli. No, capisce? Io non guido nessuno. No, nessuno. No, io non guido nessuno, non guido nessuno. Niente, non guida nessuno. Senta, ma Salvini ha detto che ospiterebbe 2 migranti a casa, un paio di migranti a casa sua. Salvini ha detto tutto e il contrario di tutto. Adesso, siccome si vede totalmente isolato, qualcosa deve pur dire. Cioè, ha detto, in tavola, ha detto una cazzata, dici. Che l'affermazione contrasta con tutto quello che lui in questi mesi ha detto e sulle quali ha fatto la fortuna elettorale. Che dici, Parenzo? No, dico che li prende in casa, così poi gli serve a tavola, capito? Beh, questa è brutta però, questa è cattiva, Senta, ma Don Paolo, secondo lei prima o poi ci sarà un Papa trans? Beh, meraviglioso, io immagino un Papa trans, bellissimo, o no? Beh, Beh, questo è transeuropeo, perché viene... No, transessuale, dicevo. Transiberiano, non lo so, ci sarà transalpino. I trans comunque sono persone rispettabilissime. Rispettabilissime, diciamo la verità. Chi dice che i trans sono malati, sono contro natura, va condannato. Beh, probabilmente perché se porta in sé il... come dire, la sofferenza di essere contro natura. Ah, tu dici, è contro natura chi lo dice? Sì, fermi tutti, giornale radio. Don Paolo, un abbraccio, a presto, eh. Don Paolo, non si arrenda, nonostante quello che dice Parenzo, non si arrenda. Voglio più zanzara e meno pubblicità. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. La Zanzara. Bombardai il Marconi, non bombardai, bombardiamo casa di Parenzo, che è meglio, è meglio cosa, bombardiamo casa di quel, che si sa se è frocio, se quello è frocio, non è frocio, si sa, può far frocio, non si sa. Allora, come sapete, Scattone ha rinunciato alla cattedra perché dice di non essere più sereno. Molti considerano questa cosa una specie di attentato allo Stato di diritto, magari anche tu, Parenzo, perché Scattone... Sì, io penso che ci sia una differenza fondamentale tra il comportamento di Scattone e ad esempio quello di Corona. Cioè? Sono due comportamenti, intanto sono due casi, voglio dire, uno è uno che sono ha finito... Sono molto diversi i casi. Sono però, molto diversi, però c'è una cosa comune. Cioè? Scattone ha finito di scontare tutta la sua pena, tutta... Lo ha fatto nel silenzio e non nel clamore. Sì. E quindi adesso, secondo me, aveva diritto, da persona riabilitata, non riabilitante, riabilitata, ad andare a insegnare a scuola in un altro posto. Sì, però l'insegnamento in una scuola... Ma lui ha finito di scontare la pena, è molto diverso. Beh, ho capito, però l'insegnamento... Capito cosa voglio dire? Sì, ma non è una pena qualunque, è un omicidio. È un omicidio di una studentessa. È l'omicidio di una studentessa. No, siamo d'accordo. Non siamo d'accordo. Tu dici che ha tutto il diritto di andare a insegnare a una scuola. Sono d'accordo sulla gravità dell'omicidio. No, ma d'accordo, ma secondo te aveva, ha diritto di insegnare in una scuola? Sì o no? La domanda è molto semplice. Sì, molto no, ma ti ho detto di sì. Oh, benissimo. Poi... Ho detto di sì. No, ma ti ho detto che invece, a differenza del caso di quell'altro, di Corona... Ma non c'entra niente, sono due cose diverse. È stato condannato, che sta ancora scontando la pena, lo fa a casa di Don Mazzi, esce su permesso del giudice per sponsorizzare il suo film su se stesso, beh, questo secondo me è un po', appunto, un po' criticabile, per carità, sempre nell'ambito del diritto, perché il giudice ha deciso che poteva farlo. Però sono due cose criticabili, perché Scattone, mentre scontava la sua pena, non l'abbiamo visto dichiarare, twittare, è stato appagato per un delitto gravissimo. È stato zitto a casa sua. Io non capisco chi si stupisce oggi della reazione dei parenti, la sorella, la madre di Marta Russo, la madre che ha detto sono contenta per gli studenti. Beh, questo hanno diritto di dire, ho capito, lui si sente, Scattone si sente innocente, è stato condannato per un omicidio, per omicidio colposo a 5 anni, cioè 5 anni con una ragazza morta, già dovrebbe ringraziare il Padre Eterno, 5 anni per una ragazza morta, omicidio colposo, un processo controverso, per carità. Ora, la signora Russo, poveraccia, che già vede questo qua dopo 5 anni uscire dalla galera, adesso che vai a insegnare in una scuola, hai il diritto di dire, guarda, secondo me non puoi insegnare agli studenti, mi sento un po' offesa da questa cosa, che lo Stato gli dà uno stipendio. E numero due, non ha detto una parola alla famiglia, non si è mai pentito, non ha fatto una telefonata. Beh, se lui si dice nulla di nulla. Però. Ho capito, una telefonata, un qualcosa. No, ho capito, però quello lì, da un punto di vista suo, non solo se è innocente. Per me il problema non si doveva porre. Lui può lavorare ovunque tranne che nella scuola pubblica, e secondo me ovunque tranne che come insegnante. Perché secondo me è così. Una volta che tu hai commesso un omicidio, in particolare un omicidio all'università nei confronti di una ragazza, di una studentessa, non vai ad insegnare in una scuola pubblica. Punto. Puoi fare tanti mestieri, perché per forza insegnare in una scuola pubblica? Vai in una scuola scuola privata, vai in un'azienda, perché insegnare in una scuola pubblica? Lo Stato deve avere una sua dignità. La dignità è quella che se tu hai commesso un omicidio gravissimo nei confronti di una studentessa all'università, morta, omicidio colposo, 5 anni, non insegni in una scuola pubblica. Punto e basta. Ci deve essere un punto fermo questo da questo lo punto. Dice la legge di Cruciani, non la legge italiana. È quello che penso io. La legge italiana, la legge italiana dice esattamente il contrario, che siccome lui ha avuto una condanna, ma la condanna non è stata accompagnata dall'interdizione dei pubblici uffici, lui aveva tutto il diritto di partecipare al concorso. Per me è sbagliata la legge, punto. Ah, vabbè. Siamo qui, 800 24 00 24. Francesco da Pescara, buonasera. Però prima volevo farvi ascoltare questa cosa. Ragazzi, le schegge impazzite hanno realizzato qualcosa di straordinario. I due uomini mascherati, gli inviati della Zanzara. Sapete che Marino oggi ha detto, che cosa ha detto il sindaco di Roma? Che chi guarda Porta a Porta commette peccato e deve confessarsi. Per cui voi cattolici, cristiani e non solo, anzi no, solo i cristiani cattolici, gli altri insieme a confessare se ne fottono, che guardate Porta a Porta commettete peccato secondo il sindaco di Roma. Ebbene, che ne pensano i preti? Che ne pensano i religiosi? Pronto? È la parrocchia? Sì. Aiutatemi, io non posso venire in parrocchia a confessarmi, ma sono in peccato. Perché ho visto la puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa con i Casamonica. Ho letto che Marino ha detto che chi l'ha vista ha fatto peccato. Ma aiuta, padre. Sì, non so come lo posso aiutare, va bene? Allora si confessi prossima occasione. Non, non può darmi al telefono, al volo, una cosa? Non esiste soluzione per telefono. Allora, io non posso uscire di casa adesso, non voglio stare nel peccato, che magari non mi succede qualcosa, vado all'inferno per aver visto Porta a Porta. No, non vai all'inferno. Fai un atto di dolore e per il momento basta. Poi, i prossimi giorni, quando ce l'hai possibilità, ti confessi, ma fai un atto di dolore, di un atto di dolore con cuore contrito, e all'inferno sicuramente non ci. Quindi io da adesso, per aver visto questa cosa in TV, faccio un atto di dolore e sto tranquillo. Sì, e poi domenica magari fai la mi confesso. Ecco. Grazie padre, grazie. Prego, grazie padre, grazie. Cioè, questo prete dice che bisogna fare un'Ave Maria, bisogna pregare. Dai, su. Francesco da Pescara. Pronto. Dimmi, Francesco, dimmi. Mi hai spiazzato. Perché? Ti volevo redarguire perché nelle parole dei preti parli di confessione come se fosse una cellula impazzita della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Io confessione, ma secondo te sono d'accordo? Secondo te sono d'accordo su quello che ha detto Marino, secondo te? No, non sei d'accordo, ma non lo nominare, lo pubblicizzi. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire lo pubblicizzi? Loro, però meno ne parli di questa gentaglia, meglio è. Ma che vuol dire? Sì, allora che facciamo? Chiudiamo la trasmissione, scusa. Ma come? Ma chiami al telefono dei preti come se fossero uomini di cultura. Dai, siamo al 2015, i preti sono uomini di cultura. Vabbè, dai, che vuoi dire, Francesco? Non chiami più nessuno. Vai, Francesco, dimmi che vuoi dire, dai. Che non devi chiamare i preti al telefono. Vabbè, poi poi io chiamo chi mi pare, preti, puttane, no. Trans, politici, imprenditori. No, devi chiamare uomini di cultura. Vabbè, devo chiamare uomini di cultura, vai. Beh, sì. Devo chiamare uomini di cultura. Come me. Poi come me? Come te, sì. Tu sei un uomo di cultura. Sì. Perfetti sconosciuti che sanno. Dimmi che cosa. Il primario unisce gli uomini nella simpatia e nell'empatia per la ricerca di un mondo migliore. Sì, tu che cosa saresti, un uomo di cultura? Non ideologhi. Sì, tu saresti un uomo di cultura. Come no? Io sono un genio, non un uomo di cultura. Un genio. E dunque cosa avresti da dire sui fatti dell'attualità? Siamo simili nei bisogni primari e nei bisogni primari dobbiamo cooperare per soddisfarli e per vivere il meglio possibile. Scusa, che cosa hai chiamato a fare questa sera, Francesco? Scusami, una curiosità. Perché mi hai rotto le scatole chiamando dei preti, facendoli passare per uomini di cultura. Sì, chi è che avrei fatto passare per uomini di cultura? Scusa, Don Farinella? Quello che hai chiamato Andy Renziano, come si chiama? Sì, Farinella. Vabbè, poi che cosa hai da dire? Dai, un uomo di cultura, un prete. Che cosa hai da dire? È troppo stupido. Troppo stupido. Cosa hai da dire, poi? Uno che dice parole vuote di fronte agli altari di pietra, mi sembra un genio. Roberto da Roma. Roberto, dimmi. Dimmi. Buonasera, allora io. Buonasera a tutti quanti. Vai. Volevo dire sui Casa Monica. Sì. Bravo Vespa. Poteva invitare pure le vittime, però. Sì, abbassa l'audio, togli la radio se è accesa. No, non c'ho poteva invitare anche questa cosa, no. Qua poteva invitare le vittime. Mi pare una cosa francamente ridicola. Certamente non lo dico io, non lo sostengo io. Uno fa la trasmissione come vuole. Come vuole. Prende tutte le critiche. Chiaro o no? Ma non, che cosa vuol dire? Ma lì c'erano giornalisti che contestavano, persone che hanno fatto presente il passato criminale di alcuni esponenti della famiglia Casamonica. No, ma era curiosa la presenza dell'avvocato, secondo me. Poi si può discutere di tutto, però era curioso. L'avvocato di Vittorio Casamonica. Era l'avvocato di Vittorio, il quale era diretto interessato, seppur morto, perché si parlava appunto dei funerali. Allora, scusa, però, ma sì, lì c'erano la figlia e il nipotino, l'adorato nipotino che è venuto anche da noi a cantare ieri, il cantante, no? Sì. Allora, se tu vai a una trasmissione che ha come oggetto i funerali di questo signore, di Don Vittorio Casamonica, e c'è l'adorato nipotino e la... Vabbè, ma si parlava del funerale di Vittorio, quello è l'avvocato di Vittorio. Poi ognuno può invitare chi gli pare, sono appunto, d'accordo. Dai, su, ragazzi. Ma se devo dire una, ma mi puoi spiegare che ci azzecca l'avvocato per tutelare il buon nome del nonno? Ma è normale che venga invitato l'avvocato, perché questi qua non sono nemmeno troppo bravi ad esprimersi. Se veniva toccato qualche punto che riguarda il passato criminale, ma no, se veniva ed è stato toccato qualche episodio che riguarda il passato criminale di alcuni esponenti della famiglia, tra cui lo stesso Vittorio, peraltro condannato per truffa, eccetera, eccetera. Tu andresti in una televisione televisiva accompagnato dall'avvocato? Vabbè, ma ho capito, ma adesso non è quello il problema, no? Se mi invitano, io domani mattina vado. Ma io no, ma mica mi chiamo Casa Monica, io mica c'ho mio zio, mio nonno che ha... Ma allora, siccome loro rivendicano la distanza dai criminali... Ma francamente, mi sembra veramente un dettaglio questa roba qui. Massimo D'Ancona, vai, Massimo. Vai, Massimo. Sì, buonasera. Ascolta, anch'io volevo dirti il fatto di aver invitato Casa Monica, insomma, a mio avviso non è una genialata, però come dici tu, ognuno fa le trasmissioni come vuole, anche se mi vorrei sostituire un attimo al nostro Stato, lo so che tu non ami i discorsi molto generali, ma viviamo in uno Stato dove delinquenti vengono invitati in trasmissioni, quell'altro ha ammazzato una ragazza, 5 anni di galera, che se fai un assegno falso te ne danno 7, va a insegnare in una scuola. Allora, italiani, da domani sbattetevi nel cazzo di tutto e di tutti, non pagate più niente, licenziatevi dal lavoro e andate a fare delinquenti. Questo è quello che ci sta. Ma non è vero, Massimo. Momento... Ma è una stronzata, Massimo. A me per 12 minuti di guida su 27 giorni mi stavano togliendo la patente, che per me è portare il pane a casa. Ma va bene, d'accordo. E quando vedo gente che ammazza le persone dopo 4 anni, schettino, le ammazzate 40, scrivi i libri e vai talk show. Ma questo è un altro. Hai ragione, è un altro discorso. Che la giustizia sia schizofrenica, non c'è dubbio. Abbiamo parlato ieri della vicenda di Chiatti, che può uscire addirittura dal carcere dopo aver trucidato 2 bambini, scattone 5 anni con una ragazza morta, eccetera eccetera eccetera, ma con la vicenda di Casa Monica non c'entra assolutamente nulla. Da che mondo è mondo, la televisione ospita mostri, intervista assassini, lo facevano tutti, lo fanno tutti anche adesso, ed è giusto che sia così. Poi bisogna vedere come lo si fa, naturalmente uno può criticare i dettagli eccetera, ma chi se ne frega. Qual è il punto? Oggi ho sentito delle trasmissioni in cui alcuni politici criticavano il modo in cui Vespa ha intervistato di Casa Monica, ma vi rendete conto o no? Il problema è il modo in cui Vespa intervista i Casamonica. No, vabbè, questo è legittimo. Ma che legittimo, ma chi se ne frega? Certo, ha fatto un po' il gigione. In alcuni momenti ha fatto il gigione, sì, è vero. Meno male. Ma lascia stare. Ma non era un processo. Fermo che c'è la borsa. Fermo, adesso torno. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale. E se fosse una donna, io le farei la corte sfilata. La Zanzara. Grillo paragona il Movimento 5 Stelle al buddismo. Io l'ho sempre detto. io non so spiegarlo il movimento, ne faccia parte, poi vedrà, quindi non avrà più bisogno di chiedere cos'è il movimento. Il movimento, io non è che chiedo a uno cos'è il jazz o cos'è il buddismo, o ne fai parte o suoni, ma non puoi spiegarlo. E quando tu suoni o sei buddista o sei nel movimento, non hai più bisogno di chiedere niente a nessuno. In realtà non è proprio un paragone con il buddismo e, come, e con il jazz, però parla di buddismo e di jazz. Ma vogliamo ricordare la frase di Casamonica? Ho votato Marino Vittorino Casamonica. Per chi vota di solito? A Marino. Ha votato Marino lei? Sì. E come mai? Perché è una brava persona. E ha votato, di solito vota a sinistra lei per il PD? Sì. Oh, secondo Esposito è una persona intelligente, Stefano Esposito, l'assessore di Roma che è stato da noi, ha cantato Roma merda, eccetera, eccetera. Vespa ha banalizzato una storia criminale di 30 anni. Bah. Questo forse. Ma non è vero, ma raga, ma di che parliamo? Ma le, cioè io ho visto degli spezzoni, ho visto giornalisti. Ma ho visto giornalisti, come dire, che dicevano la loro, sì, vabbè, schede, ma cose. La cosa è questa. Ma quale banalizzazione di che? Ma di che parlate? No, chi fa un mestiere come il nostro, che è un mestiere di chi si espone, perché allora? Può piacere o non vabbè, piacere. Allora? Eh no, ma questo allora si espone anche alle critiche. Ma certo, infatti è non è che ha detto. Infatti, No, ma è evidente che uno poi fa la scelta come quella che sicuramente sapeva avrebbe fatto discutere, l'ha fatta e si prende anche le contumelie del caso. Siccome lavora al servizio pubblico, deve mettere in conto in più che può essere che qualcuno al sentitino lo bastoni. Vabbè, ma cioè, ho capito, ma non adesso, so. Adesso quello che io non capisco, tutti quelli che si stupiscono delle ma critiche. Ma perché evidentemente è gente che non sopporta Vespa, come il caso di Marino, come il caso mestiere, chi fa il nostro mestiere si deve esporre a questa roba qui. Vabbè, ogni ma giorno sei giudicato per quel che fai. Se sei servizio pubblico lo sei due volte e fa parte del gioco. Vabbè, però d'accordo, ma adesso questo non è in discussione, nessuno ha detto è che non è incriticabile, qualcuno, non è incriticabile Vespa, figuriamoci, prende critiche da e bastonate da un sacco di tempo da parte di chiunque, non è quello il punto, dai, non diciamo cazzate. Il punto è che viene criticato perché ha ospitato, ha fatto sedere su quelle sedie due esponenti della famiglia Casamonica, peraltro incensurate, e secondo alcuni, tra cui Esposito, ha banalizzato questa vicenda criminale. Sentiamo. Una critica anche. Bah. Il Casamonica, per chi si è letto le carte giudiziarie, hanno una storia criminale che è trentennale e forse non è anche qualcosina di più. Vespa ha fatto un'operazione, e qui c'è l'elemento di critica fortissimo, che è quella di banalizzare la portata criminale. Allora, dove andiamo? Andiamo a Verona, Lucio, vai. Pronto? Sì, dimmi. Volevo intervenire sulla questione Scattone. Sì, vai, dimmi. Omicidio colposo, Cruciani, diverso da omicidio doloso. Beh, non c'è dubbio. Ha pagato una quindi non c'è la volontà. C'è sempre una ragazza morta, Ce ne sono, cioè, se non si mettevano lì a sparare, Scattone si è sempre dichiarato innocente. Ma quello tutti si dichiarano innocenti, che vuol dire? Quello ma è chiaro. Non è vero, non è vero. Allora vediamo magari. Sì, ma ragazzi, a me che si dichiara innocente non me ne frega niente. Cioè, è stato condannato per un omicidio? È stato condannato per un omicidio di una ragazza? Non è stato condannato all'interdizione dei pubblici uffici. Ma va benissimo. Pena, a mio parere è sbagliato. Che è una pena. Tacci, fammi parlare. Che è una pena di tacci cosa? Cioè, ma una pena che lo restituisce alla società. È partita la vena. È partita la vena. La società e ha diritto di fare il suo mestiere. Vabbè, secondo non te importa se nella scuola pubblica o nella scuola secondo privata. Secondo te questo? Perché sempre nella scuola, se no non dovrebbe mai insegnare. Questo è il concetto. Ma perché e la gente non si deve permettere di giudicare due volte. Lui è già stato giudicato, ha scontato la pena, punto e fine. Ed è un uomo che ha diritto di vivere. Se no togliamogli la vita, come abbiamo fatto con Sacco Tanzetti, e dopo 50 anni abbiamo detto che ci siamo sbagliati. Calma, calma che stai male. Calma. Una volta che abbiamo calma che stai la male. Pena, calma. Abbiamo finito di pagare. Calma che stai male. Ascoltato la pena in silenzio e con dignità. si è risocializzato e sì, quindi ha diritto di fare il suo calma, mestiere. Che stai e male. Non importa se è al privato o al pubblico, ha diritto di fare il suo mestiere e il suo mestiere è fare l'insegnante. Punto. Nessuno deve giudicare due volte. Lucio, basta guarda, una sentenza, che la tua... non cento. Sì, ma stai, stai calmo ha adesso. Capito? Stai calmo. Ha capito? Vabbè, non funziona la giustizia. Gli è partita la vena. Se la legge non le piace, faccio un referendum, la secondo te ha ragione, per me no. Non la rispetta, come ha fatto Socrate sì, bevendo la cicuta. Punto. Fermo. Arrivederci, grazie. Sì, aspetta, fermo lì, che così è troppo facile, amico mio. È troppo facile allora, anche per lei. No, no, per carità, ti è partita la vena, allora, d'accordo. Allora facciamo un dialogo tranquillo. No, ma ti è partita la vena, ma io sono, capisco che uno gli possa partire no, la vena. Non mi è partita. Avrai qualcosa la vena. A che fare con la giustizia, avrai avuto a che fare con la giustizia anche tu, no, magari. No, per no, carità, no, ma mica ho detto che sei un criminale. Però, caro Lucio, il punto è questo: tu hai quest'idea, io ne ho un'altra. A mio parere, non è opportuno che Scattone insegni in un istituto pubblico. Posso esprimere quest'idea oppure allora, sono un sovversivo? No, amico mio, adesso tuo, non ribattiamo le cose, fammi no? Parlare, ti ho fatto parlare. No, amico mio, innanzitutto decido la io. Decido io quanto parli opinione, o quanto non parli, la chiaro? La tua opinione l'hai detta. Sì. Quello che non è corretto, secondo sì, me. Quello che non è corretto, me, sì. Ed è la mia opinione che non vale c'è dubbio, tanto quanto la tua. Sì, okay, certo, non c'è dubbio. Qui è esatto, sempre così, La mia opinione è che va anche detto e non criminalizzato un fatto. Va anche detto che l'omicidio di Scattone eventualmente è un omicidio di una persona che si è sempre dichiarata innocente. Vabbè, pazienza, e chi la se ne tua frega. Opinione vale quanto quella dei giudici, perché anche no, i giudici veramente non è così, sbagliare. Non è così, non è che la sua opinione vale come quella dei giudici, su questo ti sbagli. Vabbè, no, caro Lucio, opinione è opinione. Hai detto per lei, no, ma no, invece le sentenze non sono opinione, le sentenze vale non sono opinioni. Altri, le sentenze non sono opinioni. Le sentenze non sono opinioni, scusami tanto. Le sentenze non sono opinioni, capito? Sacco e Vanzetti dimostrano. Vabbè, comunque, ma Sacco e Vanzetti, ma chi se ne frega, ma li conosci solo tu, dai. Forza. Lui la sentenza l'ha rispettata. Vabbè, Lucio, ciao, Alessandro dalla provincia di Monza, dai, Alessandro. Sì, pronto? Dimmi, ciao, caro, dimmi. Ciao. Io volevo intervenire a riguardo di quello che ha detto prima, come si chiama, Don Farinella. Sì, nel senso che io credo che Vespa abbia fatto male, ma non me ne frega niente, nel senso che ho spento, ho cambiato canale. E chi se ne frega di quello che fa Vespa su sto canale? Se uno dei pochi che ha cambiato canale, perché ha fatto un sacco di share, ha fatto un sacco sì, di ascolti. Sì, infatti Vespa c'ha ragione. Ma è interessantissimo, è stato parlare, ma sentir certo, parlare ma... Vera Casamonica, dire quelle guarda, cose dell'Eruva Merlene che non sapeva nemmeno ma, dirlo, guarda, come arredava la casa, tutte le cazzate che hanno detto, meraviglioso. Vuoi, ma io credo che dei mafiosi in televisione non ci ma sono a parte quindi... che quelli non sono per niente mafiosi. Non sono per niente. Se dici che sono mafiosi, ti faccio querelare dall'avvocato. Non bene, il mio, quello sono, della famiglia. Non sono mafiosi, sono parenti di mafiosi. Ma che vuol dire? Ma anche se fossero stati mafiosi, ma avrebbe fatto bene a invitarli. Ma di che parlate? Di che parlate? Ma chi volete in televisione? Poi la cosa incredibile è che accusano Vespa. No, no, aspetta, fammi, no, fammi finire. Accusano Vespa. Stai un attimo zitto, Accusano Vespa. Accusano Vespa. No, ma stai sereno tu. Accusano Vespa di fare una. Lo accusano sempre di essere uno tranquillo, che non invita mai nessuno, che non fa mai un passo in più. Uno che fa sempre il solito dibattito politico in cui i politici non si scannano uno con l'altro, anzi, non si scannano nemmeno troppo, cioè accusano Vespa di essere uno un po', no, ultrademocristiano, eccetera. Ha fatto una cosa a suo modo rivoluzionaria, cioè nel senso che cosa ha fatto? Ha invitato due signori di Casamonica che non erano mai intervenuti fino a quel momento, dopo un mese dal funerale, quasi un mese dal funerale, e li ha fatti parlare, ha contestato qualcosa, altri giornalisti contestavano e si è scatenato l'inferno su una cosa nuova che ha fatto Vespa, tra l'altro. Cioè, vi rendete conto della ridicolaggine o no? Ma infatti lui ha fatto benissimo, lui se il suo obiettivo era fare share, a parte che anche quello è l'obiettivo, prima ha fatto no, bene giornalisticamente a far intervenire due di Casa Monica, la figlia del boss e del presunto boss che pare non fosse manco un boss o comunque di uno che aveva un curriculum criminale, e l'altro come si chiama, Vittorino, che è venuto pure da noi. Dai su ragazzi, ma non c'è nemmeno da discutere, chi discute di queste cose è un cretino. Se alla Rai discutono di queste cose è perché vogliono rompere i coglioni a Vespa, non c'è un motivo così filosofico, dai, siamo ad alti livelli qua, La Zanzara. Fatemi prendere un attimo di pausa, Parenzo, basta con i Casamonica, non ne posso più, è due giorni pare che parlo di Casamonica, forse continuerò a parlare anche nei prossimi giorni, domani, credo domani, perché non so la data esatta, domani sicuramente festeggio, però non so se è la data esatta del suo compleanno, fa 60 anni, beh, un amico della Zanzara, un personaggio meraviglioso, uno dei simboli, direi anche della cultura italiana, oserei dire, della cultura italiana. Lo sai che, non c'entra niente, ma al matrimonio di uno del portavoce della Boschi, chi se ne frega, il matrimonio del portavoce della Boschi, dove c'erano diversi amici tuoi anche, persone che conosci, cantavano le canzoni di Pupo. Enzo Chinazzi con noi, ciao, ciao. Ciao, ciao Giuseppe, ciao, ciao Parenzo. Come buonasera. Andiamo? Come andiamo? È domani. Diciamo le cose come stanno. Sì, è domani. Io faccio il 15 però, vedi? Abbiamo qualcosa in comune. Ah, sì. Anche io sei vergine anche tu. Sono vergine. Infatti sì. Le persone intelligenti, ero sicuro che eri vergine. Ero vergine, 15 settembre, tu 11. Ma vergine ascendente? No, io gemelli, io gemelli. Tu gemelli, no, io capricorno, credo, boh, non me ne frega niente, manco lo so. Come stai, no, innanzitutto? Molto, molto bene, diciamo sereno. 60 anni, come ti senti a 60 anni, Pu? Beh, direi un bilancio, diciamo, parlare un po' di luoghi comuni dei bilanci, io non ne faccio. Ma no, bilanci, per carità, i bilanci non si fanno mai. Non si fanno, però diciamo sono passato indenne da parecchie bufere, quindi bene. Cioè ti senti bene, vecchio, no? Ma innanzitutto che fai? Fai no. I prossimi 60 anni cosa farai per i tuoi prossimi 60 anni? Che beh, che carino. Che ora sei 60 a metà della tua vita, metà esatta. Ma non pensi di vivere fino a 120 come pensava Berlusconi? Beh, io ci spero perché adoro la vita, mi chiedono le palle morire da proprio... Io proprio sto bene al mondo, sono nato per stare al mondo perché mi piace la vita, proprio mi piace tanto. Senti una cosa, quindi... voglio chiederti una cosa, ma a 60 anni tu che hai fatto un patto con non so con chi, perché a vederti sembri no, cioè qualcuno tempo fa ha detto che ti rifacevi. No, non è vero, non mi sono mai rifatto, odio questo tipo di pratiche, però mi curo molto a livello alimentare e anche mi do molte creme e idratanti, mi piace molto la cosmesi. Mi faccio molti massaggi, sì, quello è vero. Una volta hai scommesso con D'Agostino, non so quanti soldi, perché no, gli davo un milione di euro se lo dimostrava che io mi ero... In pratica mi ha fatto mettere. Tu non ti sei fatto mai un lifting di vita tua, mai. Odio le donne, anche che lo fanno. Le donne, per me le donne sono belle quando sono anche abitano questa faccia. Bene. Io adoro. Ti piacciono le rughe, una donna rugosa. Sì, anche rugosa quando sì, assolutamente. Beh, anch'io devo dire la verità. La donna con la pelle un po' andata, diciamo, con la pelle un po'. No, ma scherzi, ma guarda che io una volta mi ricordo una modella di una famosa firma, non so. Sì. Di Laura Biagiotti, sì. Che era una di San Pietroburgo, che sembrava finta, voleva per forza fare l'amore con me, ma a me mi sembrava un cartone animato, come era proprio intera, dura, tutta tirata, e io non ce la faccio. Beh, non ce l'hai fatta, non mi dire che non te la sei scopata alla fine, che non ci credo, dai. Non me lo ricordo. Ma come non te lo ricordi? Non sono attratto. La modella dell'est. Tu che ne so, tra una modella dell'est di 25 anni la Bignardi? Vabbè, troppo facile. Beh, la Bignardi la sono, io divento pazzo per la Bignardi. Ma come, perché per diventi pazzo per la Bignardi? L'ho letto da qualche parte. Per me è sesso lei, dal mio punto di vista, è molto soggettivo questo. No, ma tutto soggettivo. Mi dà molta carica. Tu tra una modella di 25 anni e la Bignardi preferisci. Ma non se ne parla neanche. Devo dire pure io, però. La Bignardi, sì, mi piace, mi piaciucchia così. Però tra una di 50 anni e una modella di 25, vado dritto per quella di 50. Una di 50 anni subito, assolutamente. Subito, chi è adesso che ti attizza in maniera pazzesca? Una di quelle che vedi in giro che ti attizza? Beh, devo dire che mi attizza in maniera pazzesca ora, in questo momento. Sì, ora. Non mi viene in mente nessuno a livello. Sì. Direi la moglie di Rutelli, la Palombelli. È una bellissima signora. Appunto. Sì. La Palombelli. Mi piace molto. Dice una cosa così. Ma perché, guarda, io l'ho vista recentemente. Dimmi. Certo, una signora molto per bene. L'altro giorno non ero libero, non sono potuto andare, ma sennò sarei andato proprio solo per lei. Ma ha ragione Pupo. Allora, io ho visto recentemente Rutelli è sempre un bellissimo uomo, devo dire la verità. Lo posso dire. Non è il mio tipo. No, nemmeno il mio. Però devo ammettere, ieri non so chi me l'ha fatto notare, qualcuno che l'ha visto, non so dove. Dice, vabbè, è sempre un bellissimo uomo, non lo posso dire, forse dopo lo dico chi l'ha detto questo, ma chi se ne frega. Sì. Però ho visto anche recentemente Barbara, ha sempre il suo fascino, con questa pelle. Con questa pelle un po', insomma, da signora di una certa età, però bella, bellissima. Sì. Ti capisco da questo punto di vista, ti capisco. Sì, sì. Cioè, faresti pazzie tu? No, pazzie sono. Non si fanno più. Le pazzie per chi le hai fatte tu? Diciamo la verità, hai fatto qualche pazzia con le donne? Per le donne, le donne sì, le ho fatte. Dimmene una incredibile che hai fatto. Ma non lo so. A 60 anni si può dire tutto ormai, dai. Ne ho fatte parecchie, ho fatto arrivare donne, mi ricordo una volta quando fece arrivare una ragazza da Cleveland, Ohio, Stati Uniti, e la fece arrivare all'aeroporto di Fiumicino, la portai per una settimana al Cipriani di Venezia, abbiamo passato una settimana meravigliosa insieme con me. Dove l'hai beccata questa qua? L'ho beccata in un tour che avevo fatto, io faccio tutti gli anni, ancora oggi ci vado a fare i tour in America, era la figlia di un medico di Cleveland, Ohio, dello stato dell'Ohio, e mi ero impazzamente, perché io prima da ragazzo ero proprio un istintivo, diciamo, subivo... Eri malato di sesso, dai, eri malato di sesso. Sì, devo dire di sì, io, guarda, è stato anche un problema grosso, diciamo, un problema... Cioè, sei andato a farti curare tipo cosa, come si chiama? Curare no, però insomma sono andato a parlare con delle persone, con un andrologo, a parlare con anche endocrinologi... E poi cioè, quanto facevi, quanto bisogno avevi di fare sesso al giorno? Tre o quattro volte, sì. Tre o quattro volte. E quando non c'era, sì, diciamo, la materia prima, diciamo, la donna? Che facevi? Te facevi una sega. Andavi con la mano così, vai alla grande, no? Ma eri veramente malato, eri veramente malato. Sì, subivo proprio da ragazzo. Ma sai perché? Perché ho cominciato presto a fare l'amore, avevo 14 anni. Sì. E allora non ho mai avuto il complesso e il problema del sesso, anzi sono molto libero sessualmente, sì, davvero libero, davvero, ma davvero molto molto libero. Non c'è si sa, stai con due persone. No, ma non è quello, proprio. È anche quello. Ho passato dei momenti, cioè, in cui ho anche dubitato della mia sessualità, nel senso, magari ero attratto da un ragazzo. Sì, ho letto che sei andato una volta con un transessuale. No, ma quello non c'entra niente. No, quello è un errore, è stato. Ma è un errore che chiaramente non me ne ero accorto, quindi poi sono arrivato lì, ero ormai arrivato a un'eccitazione che non potevo tornare indietro e ho concluso, non vi dico in che maniera, chiaramente. No, come però, ho capito, hai fatto, che è l'unica maniera possibile, come hai concluso? No, ce ne sono 3 o 4 o 5 anche di esistere, come una bomba. Addirittura? 3 o 4? Come concludi un rapporto sessuale? Concludi, ho capito, sì, ci sono tanti modi, certo. No, figurati. Vabbè, allora, pubblicità, poi torniamo, 60 anni di pupo, dove non c'è solo sesso, naturalmente, nei 60 anni di pupo, ci sono tante altre cose, però certamente il sesso occupa una parte importante, ha detto che è stato malato per un sacco di tempo, cioè quasi una malattia, quasi un problema, diciamo, 3 volte al giorno, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, sempre la zanzara, poi ricominciamo. Lo faccio da Parezzo. Amici miei, siamo al top. La zanzara. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Sai, Parenzo, che quest'estate abbiamo passato una serata, non dico da chi perché non voglio sempre rivelare tutto, dire sempre tutto come facciamo io e Pupo, non si può dire sempre tutto, perché sempre tutto non si... Allora, abbiamo passato una serata a casa, sì, no, ma tanto lo sanno, a casa di D'Agostino, eravamo io, D'Agostino, Malcolm Pagani e altre persone, in cui abbiamo cantato per un'ora tutte le canzoni di Pupo, tutte, gelato al cioccolato, quella là che tu hai dedicato, forse non si sa, alla Durso. La storia di noi due. Bellissimo. Com'è che faceva la storia di noi due? Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi. Ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. Spettacolo. Ma la canzone qui... Mi viene in mente questo, caro Pupo. Avverrà tra 70 anni. Ma lo vorresti un funerale in stile Casa Monica? Ah, questo è buono. Ah, che bello. Allora, guarda, io ne ho visti tanti. Avverrà tra 70 anni, Che ti ringrazio di questo. Però non lo so, non mi piacerebbe proprio come... stile forse no, ma un funerale importante con un po' eclatante, siccome sono anche un esibizionista, mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe che non fosse un funerale normale, mi piacerebbe che fosse un funerale di un esuberante come sono sempre. Che vorresti al tuo funerale? Ci hai pensato qualche volta? Cosa vuoi? Tutte le tue donne, ma magari il ballo, magari la gioia, la festa, come è stata sempre un po' anche nei momenti di difficoltà, perché guarda, io ti dico la verità, ora adesso voi non vorrei che fosse letta in chiave politica questa cosa in maniera sbagliata, però io ti dico, io mi fido molto di più delle persone che nella vita hanno avuto un percorso di esperienze incredibili, ma di tutte le esperienze, che poi a un certo punto quel percorso li ha portati a un equilibrio che ti porta a fidarti di quelle persone. Noi abbiamo troppa gente che non dichiara quello che ha fatto, questo è vero, che è piena di frustrazioni, che è piena di cose non di cioè di meglio uno che ha sbagliato, meglio uno che ha sbagliato. Ma molto meglio, ma magari e che ha recuperato piuttosto di uno che fa finta di essere perfetto e invece nasconde e nasconde le peggiori perfezioni. Hai tradotto in maniera concisa perfettamente quello che voglio dire. Quindi magari io sono contento di essere così. Perché a 60 anni domani sera farà una festa con 1000 invitati, con la nazione cantante a Ponticino? Mille. Perché, sì, certo, perché, mille, sono, certo, okay. perché sono un uomo che ama stare al centro di attenzione. Sono nato per questo. Cioè, tu se dovessi, come dire, non te lo auguriamo naturalmente, se non dovessi essere più al centro, che ne so, non dovessi fare più televisione, moriresti. Ah, ma scherzi, ma no, non ce la farei a non fare il tuo mestiere. Io quando vado ai funerali, degli altri, quasi invidio il morto perché è al centro lui della sezione, capito? Cioè, sono proprio a questi livelli, capito? Scusa, ma tu, siccome hai fatto tutto pure in televisione, sei passato praticamente da tutte le esperienze possibili e immaginabili, c'è una cosa che ti piace, al di là del lavoro, di quello che farai, ma una cosa che veramente dentro di te ancora vuoi fare, che cosa? Professionalmente? Una cosa. Ma cioè un lavoro in televisione? Sì, sì, una cosa che mi piacerebbe fare, sono convinto che lo potrei fare abbastanza bene con una veduta professionale, internazionale, direttore artistico e conduttore di Sanremo. Oh, ma perché Sanremo tu non l'hai mai condotto? Mai, no, mai. No, ma, partecipato 6 volte, ma scusa, ma è una follia, ma Pupo non ha mai condotto Sanremo, ma siamo pazzi, Parenzo, scusa. No, voglio dire, io ad esempio un domani mi piacerebbe, potrei condurre i funerali di Casa Monica, se ci fosse un altro funerale, condurlo. Ma no? Che senso condurre i funerali di Casa Monica? No, ma a questo punto va. Ma vogliamo appoggiare Vespa, Pupo? Appoggiare Vespa su questa cosa? Ma assolutamente sì. Condurre lui, dovrebbe condurre lui i prossimi funerali di Casa Monica. Guarda, che capitano lontanissimi del tempo. No, ma dimmi una cosa. Lì, sì. In mezzo alla piazza, ecco, arriva il cocchio con 7 cavalli, arriva l'elicottero che lancia dollari sulla città. Questo dovrebbe fare. Tu sei mai stato pagato per andare ai funerali di qualcuno? Oppure ai compleanni, eccetera? No, hai fatto... io compleanni, cazzo, io si campo con i compleanni. Ma veramente, con i compleanni? Con i compleanni dei russi, in Italia no, perché non hanno i soldi per pagarli, ma con i compleanni dei russi, ed io vivo di quest'anno ne ho fatti 15. Ma quanti te ne danno dei soldi per il compleanno del russo, scusa? Ma allora, i compleanni, io non sono solo compleanni, anche anniversari, noi siamo 5 artisti italiani, io, Albano, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, che facciamo e Riccardo Fogli mi sembra e Riccardo Fogli anche bravo scusami che facciamo questo praticamente come primo quasi come primo lavoro come entrata primaria della nostra ma quanto ti danno 30.000 evento quanto ti danno ma dipende sono cifre importanti cifre importanti ma scusa viene anche al mio compleanno cifre che mi consentono Giuseppe di mantenere la dignità umana e professionale in un paese come il nostro che a volte vorrebbe umiliarsi, capito, anche a livello professionale. Quindi io no, ma diciamolo, i soldi sono fondamentali, diciamola tutta. Fondamentali per mantenere la propria dignità, ma non per umiliare gli altri. Io adoro i soldi perché mi consentono di essere libero. Di andare a cagare quelli che mi fanno delle proposte indecenti. Ma chi è che ti ha fatto l'ultima proposta indecente? Dimmene uno. Ma ultimamente meno perché non mi chiamano più, ma ai tempi me l'hanno fatto, io ero una macchietta, cioè solo 10 anni fa ero considerato quasi nella crisi professionale una macchietta televisiva, non ero considerato un artista, oggi poi ho un po' svoltato e sono un po' che me l'hanno fatte miliardi di proposte indecenti, vergognose, capito, del tipo che non deve andare a fare il buffone in televisione. Io che non vado in televisione a fare il buffone, forse non se ne è accorto nessuno perché la gente ha delle beghe sue personali e non si concentra in questo, ma io ho una vita che non ci vado. Tu portami un esempio di Pupo che va a fare la macchietta o l'ospite in televisione, non c'è, capito? No, ma questo devo dire, poi io sai, ho un debole per te, per cui non faccio testo. A parte un debole, questo è oggettivo, capito? Queste sono scelte, sono scelte che io faccio anche duramente. Ho mai partecipato a un reality? Ma te l'hanno offerto? Sì, sempre, tutte le volte. Ma anche adesso, l'isola dei famosi VIP te l'hanno offerto? No, io non so neanche che esiste, ora no, non mi chiamano neanche più ora, perché io ho detto di no a tutti i reality esistenti. Vabbè, però non è che sia osceno il reality di per sé, è che tu non ci volevi andare. Ma per me sì. Io anche in crisi economica ho detto di no, ma lo dico con questa convinzione, scusate, un po' l'enfasi con questo. Che ti fanno schifo, dai. Perché mi fanno schifo televisivamente, non li sopporto. Io ci sono delle cose in televisione che non guardo e non guarderei mai. E Vespa ha fatto bene invitare Casa Monica, sì. per me ha fatto il suo mestiere, Vespa è un professionista, l'ipocrisia che dilaga ormai in Italia, nella politica, ma anche fra i giornalisti, è davvero una cosa riluttante. Quindi dal mio punto di vista Vespa ha fatto il suo mestiere. Ma ragazzi, qui ci sono politici che hanno partiti invischiati con Mafia Capitale, che poi protestano con Vespa perché invita Casamonica. Ora non voglio dire solita banalità, ma è più scandaloso far parlare di problemi sociali e politici a delle starlette in dei talk show o che Vespa intervista Casamonica. Ma vi rendete conto di questa cosa qui? La televisione è strapiena di gente, sì, di gente che non ha niente da dire, che dice che non ha niente da dire. Anche noi li ospitiamo, però non facciamo la morale a nessuno, capito? Anche noi giochiamo, eccetera, però non è che ci permettiamo di fare la morale dicendo no, qui dove invita. È quello il punto. Senti, ma tu hai fatto un calcolo di quante donne hai trombé? Con quante donne sei stato a letto? No, non l'ho fatto, comunque parecchie. Mille. No, sì, ma non lo so, parecchie. Ma è un calcolo, Enzo. Io sono stato molto attivo, un po' meno. No, ma come un po' meno? Che vuol dire meno? No, un po' meno nel senso che sono più tranquillo, sereno. Ma le due conquistai? Prima. Con le due conquistai ma non ormai sei un vulcano spento. Il sesso non lo fai più. Sei un vulcano spento. Ricordati che quelli bassi. Direi insonno. No, insonno. Le due conquistai non le soddisfi? Non le soddisfi le due? Sì, le soddisfo moltissimo, ma anche loro sono meno esigenti. Non vado con le ragazzine, non vado più con le ragazzine, vado con le mie due signore che sono in equilibrio perfetto con me, come ti dicevo prima. Io sono un uomo ormai, voi non ci crederete, ma che ha trovato un equilibrio. E quindi sono non mi dire che vai a letto solo con le tue due mogli, chiamiamole così, sì, perché non ci credo. Ultimamente sì, è vero. Ultimamente sei diventato fedele alle due. Ultimamente sì. Ma come si dividono le due dal punto di vista, diciamo, sessuale? Cioè, come fate? Non ne parliamo mai di sesso noi. Perché, in tre mai perché, insieme, no? In tre mai. No, in tre mai perché non sarebbe una cosa che mi farebbe schifo. Ma non perché mi fa schifo l'orgia, che mi piacerebbe anche, ma non con loro due. Non con loro due. Ascoltano la radio le signore, vero? Se l'ascoltano non c'è nessun problema, anche perché noi le domande sul sesso non ce le facciamo mai, però devo dire che sono molto tranquillo perché le mie signore nel tempo mi hanno dato loro delle indicazioni di come, cioè noi ci siamo aiutati in questo senso. Cioè oggi questa settimana ti dedichi a me, l'altra settimana ti dedichi all'altra? No, ma diciamo che ci sono molti modi per essere soddisfatti sessualmente, non c'è solamente il gesto, quello istintivo, un po' noioso della penetrazione, che ormai è abbastanza fuori uso. Ormai la penetrazione, diciamo, ormai è fuori moda. È un po' una cosa di una tristezza unica. Una tristezza, sì, è vero. Cioè, tra cunnilingus e penetrazione non c'è paragone. No, ma per carità, ma se ne facciamo proprio in un altro mondo. Ma sì, e tra depilata e pelosa cosa scegli? Ma assolutamente la seconda. Pelosa, anch'io. Parenzo, tu? Scusami? Tra depilata e pelosa, cosa preferisci? No, ero sovrapensiero. Vabbè, puoi dire, ma dai su, ma apriti con noi, con me, Enzo. Siamo in diretta sempre. Sì, siamo sempre in diretta. Secondo me la commissione di vigilanza della RAI su questa cosa di Casamonica fa bene, diciamo, a prendere una posizione politica. Mamma mia, come sei bigotto. Perché sono polemiche pelose quelle che in questo momento stanno pelosa, anche tu peloso. Sono polemiche pelose quelle che il Partito Democratico sta tirando fuori contro Bruneo. Senti, invece non ho capito, tra l'originale e i sex toys cosa preferisci? L'originale. Ma è vero che andavi in giro con una valigetta, nella famosa valigetta di Bubo, cosa c'era? I sex toys, non ci credo. Cioè, tu c'era una cosa così, poi c'era anche una lampa. Ma io ero un ragazzo molto. Ero molto curioso, capito? Mi divertivo molto. Ma come sei guarito poi? Come sei guarito da questa malattia? Ma col tempo, piano col piano. Col tempo si guarisce. Col tempo, trovando anche, ma anche soffrendo, poi parlando. Vedi, parlando, lui ti chiede con questa insistenza come sei guarito. Perché è malato, perché vive malattia. Esattamente, in realtà avendo anche lui questa straordinaria malattia, spera all'età dei 60 anni, gliene manca ma lui è guarito prima però, Enzo è guarito prima. Qualche anno fa. Mi ricordo una volta, eravamo, se abbiamo un secondo ti racconto questa cosa, eravamo a Sydney, e io ero in tournée in Australia, sono andato alla sauna che era l'ultimo piano del mio albergo, no? Sì. E praticamente era una sauna mista, ma eravamo vestiti con l'asciugamano, tutta la praticamente sono entrato e c'era una signora carina, molto carina, ma io non sapevo chi fosse, chiaramente, perché pensavo fosse australiana, pensavo, a un certo punto stavo zitto, lei zitta, e c'era sto cazzo, a un certo punto e gli chiedo, dico, what's your name? E quella, quella mi fa, no, io italiana. Io, ma come italiana? Che cazzo dico? Io sono italiano. Io presentai, era un'italiana che era alla fiera delle mattonelle, era una di Sassuolo, di Modena, che con il marito era alla fiera delle mattonelle che c'era a Sydney in quel momento. E te la sei fatta, Io, questa roba che era italiana, questa roba che è nata così, che eravamo stati 10 minuti a guardarci senza, a un certo momento gli ho detto chi ero, lei mi ha riconosciuto perché non mi aveva riconosciuto nudo, che io vestito faccio schifo, ma nudo veramente non si può vedere. Allora praticamente allora lei che ha fatto? Ha detto, ah, ma mi faresti un autografo? Dico, guarda, l'autografo in sauna, con che cazzo te lo faccio? E allora l'ho portata in camera per dargli una cartolina con l'autografo, e praticamente lì è successo di tutto, e lei continuava a dire, pupo, ma io così ci rimango male, se fai così ci rimango male, insomma, ma sono scopata, dico la verità, e poi non l'ho più vista, il marito non ha più saputo niente, queste sono le cose meravigliose. Ma perché ci rimango male? Perché diceva ci rimango male? Scusa. Diceva, pupo, se reagissi così, faceva, io ci rimango male, un po' la modenese, sai, la stessa, ci rimango male, e cazzo, ci rimani male, allora che te posso fare? Cioè, se mi lasci così ci rimango male, cioè, voleva, cioè, se non facevi niente ci rimaneva male, questa era la cosa. No, ci rimaneva male perché diceva che era rimasta male della mia reazione, un po' così da maniaco. Un pochino, da maniaco, ci rimango, però poi, perché, c'è stata, poi c'è stata. Poi c'è rimasta benissimo. Sì, poi c'è rimasta bene. Poi è rimasta le donne di solito ti dicono che le tue prestazioni sono ottime, cioè come ti consideri tu? No, mi considero uno in questo senso che ha sempre soddisfatto l'altra parte, perché io sono molto, molto altruista. Quindi e le misure? No, le misure di chi? Tue. Mie? Ma le misure discrete. Siamo sopra i 15 o no? Sì, assolutamente discrete. Discrete. Vabbè, senti, caro, io parlerei con te per una vita, ma ti devo lasciare. Un'ultima cosa è questa. Ma c'è un sito che ha questo titolo: Matteo Renzi e Pupo sono la stessa persona. C'è un sito su Facebook così. Che ne so, perché dicono che assomigli a... Che un po' ti assomigli. Io ho molta... Hai molta stima, l'hai già detto, hai molta stima. Di Matteo, te l'ho detto. Quindi credo che... È un po' in calo di popolarità, signor Renzi. È un po' in calo, credo che sarà un problema forse per lui. Non vorrei diventare per Matteo Renzi quello che era fede per Berlusconi. Insomma, chi? Apicella, dici, no? No, non vorrei diventare per Matteo Renzi quello che era Emilio Fede per Berlusconi. Era diventato un problema. Adesso Emilio Fede dice addirittura che gli piace Renzi e voterebbe Renzi. Senti, il tuo amico Morandi dice che ospiterebbe due profughi, tu lo faresti? Io purtroppo non ho spazio in casa mia, c'ho la casa di mio padre e non c'è. Vabbè, come non c'hai spazio adesso? Però, no, ho un albergo che ho ricomprato, quello che avevo, che ho perso e che l'ho ricomprato un anno fa. E magari ti devo dire la verità, se potessi ora, avessi tempo per ristrutturarlo, ma non so, magari qualche persona ospiterei, perché non sono assolutamente contrario alla ospitalità e all'integrazione. Io sono per l'opportunità di scambio di culture, è chiaro che bisogna tutto molto regolamentato, ma non sono per... Però se potessi lo faresti. Io darei una mano a tutti, assolutamente sì. Assolutamente. Ciao caro, a presto, ragazzi, buon compleanno, ciao. 60 anni, un mito, ciao, grande, ciao, grandissimo, ciao. Pippe, molte pippe. La Zanzara. Allora ragazzi, dopo aver appreso che Pupo va pazzo per Barbara Palombelli, perché questo è... dai Parenzo, questo è strepitoso, cioè Pupo che preferisce Barbara Palombelli a una ragazza di 25 anni, no, è stupendo. È una signora talmente elegante, come dire... Nei giorni scorsi abbiamo appreso, è diventata una foto simbolo quella del piccolo bambino morto, no? Aylan. C'è una versione un po' diversa, data bambino siriano. C'è una versione un po' di destra che viene data dalla zia dei bambini morti in mare insieme ad Aylan. Naturalmente bisogna sempre prendere queste cose con le molle, no? Però, dice questa zia, questa signora intervistata in Turchia: il padre di Aylan era ubriaco. Padre di Aylan era ubriaco ed è stato lui a provocare l'incidente per il quale poi si è ribaltato il barcone e sono morti i bambini, e non solo i bambini, anche la madre di Aylan. Dunque questo, diciamo, padre che è stato omaggiato nei giorni scorsi sarebbe stato ubriaco in barca e avrebbe provocato l'incidente. Questo lo dice la zia dei bambini morti in mare. Vabbè, ma non toglie nulla la storia. No, per carità, sempre morto il bambino è sempre. No, non toglie sempre nulla la storia, perché quella roba lì è diventata comunque, quella foto, il simbolo di una cosa epocale. Sì, quindi, adesso lasciamo perdere queste cose. Ci siamo già dilungati nei giorni scorsi. I migranti che vanno a piedi per 170 chilometri carrozzina con stampelle. Mamma mia, che emozione, guarda, mamma mia che emozione, che hai fatto. Beh, è una cosa che fatto, certamente emozionante, certo, mondiale, certo. Una roba pazzesca. Ne ha parlato tutto il mondo, ci sarà un motivo. Ma perché mai hai visto dei popoli a piedi? Vedremo quello che succede nel concreto, vedremo. Io resto sempre a Lutwak. I migranti economici no, quelli politici, se proprio vengono dalle guerre, certo, accogliamoli, ci sono le leggi. Traffico veo chi là. La Zanzara. Andiamo a Bergamo, Luigi, vai. Sì, ciao Cristiani. Dimmi. Prima, quando parlavamo della scuola privata o meno, scuola pubblica per l'insegno, ma mi spieghi che differenza c'è per se questo non deve insegnare a scuola pubblica, ma invece potrebbe andare bene per insegnare a scuola privata? Guarda, la differenza è fondamentale, perché Scattone ha commesso un omicidio che è stato, che è uno dei reati più gravi, è stato condannato per questo a 5 anni. C'è un concorso pubblico e secondo me un omicidio deve essere sempre accompagnato, a mio parere, dall'interdizione dei pubblici uffici. In Italia ci sono tanti lavori, cioè, bisogna anche capire una cosa del genere. Non è possibile che uno debba lavorare per forza con lo Stato, cioè ci sono tantissimi lavori, tantissime opportunità in Italia, perché proprio dallo Stato? Ma infatti, ma questo non dovrebbe, per i reati molto gravi, evidente che se tu, ma giusto, ma questo non dovrebbe proprio più avere niente a che fare con studenti o persone di, ma quello è un altro discorso. Però un istituto privato si assume la responsabilità di assumere un insegnante, il concorso è aperto a tutti, un istituto privato sceglie i propri insegnanti e dunque se si prendono la responsabilità di assumere Scattone, facessero loro, poi se i genitori sono d'accordo, i genitori tireranno, esatto, figli, è un po' diversa come cosa. Tu arrivi in una scuola anche casualmente con un concorso pubblico, no? Assegnano ad una scuola, i genitori non lo sanno, il preside non lo sa, ma ti do perfettamente ragione, volevo semplicemente dirti che hai perfettamente ragione, sono dalla tua parte, assolutamente sì. Va bene, andiamo a Gianmarco, provincia di Monza, vai Gianmarco. No, di Roma. Comunque è veramente un paese questo assurdo, ormai è una banalità dirlo per le assurdità che si susseguono. Cioè Scattone non dovrebbe insegnare neanche in una scuola privata, ma non tanto perché è stato condannato per omicidio colposo, perché chi cazzo se ne frega alla fine, ma perché uno che ha un senso talmente basso dei luoghi di istruzione che ci si porta dietro una pistola non denunciata, la maneggia a cazzo di cane e gli porta un colpo. C'è uno, un coglione come questo, non dovrebbe neanche guardarle le scuole, punto primo. Punto secondo, Marino dice che Vespa, cioè adesso Marino mi porta anche a difendere Vespa, veramente l'impensabile. Allora Marino dice che Vespa ha fatto vergognare Roma, quello che cazzo ha detto, ma è Marino che fa vergognare Roma. Più volte ha nominato dirigenti in comune già condannati, come quello dell'AMA, un dirigente dell'AMA l'ha nominato che era già condannato o indagato per disastro ambientale. È Marino che fa vergognare, vabbè, Roma. Questa è la tua opinione su Marino? La cosa ridicola è il fatto che dica oggi, non smentito, credo, che bisogna, chi guarda porta a porta commette peccato e si deve andare a confessare. Però con Vespa c'è una guerra che dura ormai da 2 anni. Ma Parenzo, io chiamerei se sei d'accordo l'avvocato dei Casamonica, il signore che era porta a porta l'altro giorno. Proverei a chiamarlo, mi sembra si chiami Giraldi, sentiamo un po' se ci risponde, perché gli voglio fare due domandine. Sì, pronto. Avvocato Girardi? Sono io, sì. Salve, buonasera, sono Cruciani, come sta? Tutto bene, grazie, tutto bene. Senta, Marino dice che addirittura guardare porta a porta è un peccato e bisogna addirittura confessarsi, un oltraggio per Roma, come la giudica questa cosa? Guardi, non mi faccia esprimere perché io sono abbastanza tagliente quando... Lei deve essere tagliente, lei deve... Quando sento cose del genere, dica a Marino che invece di godersi i suoi ozi di newyorkesi, sì, la sua presenza qua, sì, avrebbe sicuramente gli avrebbe evitato gli sfondoni che ha detto e le follie, perché una frase del genere, che non lo so, me la ripeta perché la voglio. È questo, cioè è un peccato, è un peccato, ecco, guardare porta a porta e bisogna addirittura, ecco, confessarsi. Sì, ecco. Sta ridendo lei, avvocato, sta ridendo. Ti giuro, sto veramente spendicandomi dalle risate. Scusi, avvocato, ma Vespa con voi è stato molto buono, diciamo la verità. Ma no, è stato un giornalista serio, dico io. Molto corretto, molto leale, molto onesto. Ha impostato il taglio della trasmissione sul gossip quasi, piuttosto che... Ah, sul divertimento, sulla... dice lei. Sulla... Sì, sì. Sì, ci siamo divertiti tutti, tarallucce e vino. Ma infatti ha avuto... Beh, ma non c'è nulla da divertirsi. Un audience, no, ha avuto uno... Ma sa, quando si parla... Avvocato? Questi due disgraziati sono venuti in trasmissione per difendere il padre. Allora, non si aspettavano mai che dovessero difendere o accusare tutto il clan Casamonica. Cioè, ma è normale che poi si parla di Casamonica, delle loro attività? Cioè, per lei, secondo lei, avvocato, è una famiglia mafiosa? Quando uno definisce i Casamonica... No. Ah, cioè, i Casamonica non sono una famiglia mafiosa. Ma non scherziamo proprio. La mafia è tutta un'altra cosa. Prima di tutto, la mafia non si espone. Il mafioso non si espone mai. Non va in giro con i vestiti bianchi, eccetera, eccetera, eccetera. La notte... E nei night a stappare bottiglie di champagne con donnini alle... Vabbè, insomma, non sono brave persone, però... Ma per carità, io non ho detto questo e sarei un pazzo a dire una cosa del genere. Sono persone che hanno un curriculum... Criminale, in alcuni casi. In molti casi. Un curriculum criminale di tutto rispetto. Tra l'altro Vittorino ieri ha detto... Scusi. Ha detto che vota Marino. Ha votato Marino, che gli piace Marino. La domanda che gli è stata fatta io non la condivido, perché... Ma come non la condivide? Scusi, non si può fare la domanda a lei per chi vota, perché ha votato. Vabbè, quella... Nulla a che vedere con i funerali del padre. Ma ho capito, ma non è che uno può indirizzare le domande delle persone. Cioè, se uno chiede a uno chi ha votato, siccome quello è incensurato, può tranquillamente dire non sono problemi suoi. Io voto, il voto è segreto e chi... È un ragazzino estremamente ignorantello, come tutti quanti. Ma se va in televisione si deve aspettare anche queste domande. No, quello era la radio. Comunque, Vespa un grande giornalista, si può dire secondo lei? Si è dimostrato un grande giornalista, un coraggioso. No, il coraggio non c'entra proprio nulla. E quelli che lo criticano come li giudica? Quelli che criticano la presenza di Casamonica in trasmissione. Sbagliano. Se è un servizio pubblico, non si può pensare che come servizio pubblico ci possa andare. Sì. Allora vi faccio un esempio molto chiaro. Allora, in un giornale c'è scritto sulla pagina sinistra che Tizio, per non far nomi, Scattone, ha diritto, sacrosanto, diritto al suo riscatto. Ed è sacrosanto lo scrivere una cosa del genere e pensare una cosa del genere. È sacrosanto, ma dall'altra parte dello stesso quotidiano non puoi scrivere e dire che andare in TV... ora la pagheranno. Voglio dire, insomma, come tu hai diritto, Scattone, sei stato... Ah, la pagheranno, chi è che l'ha detto? La pagheranno, chi è che l'ha detto? Non mi ricordo. Il prefetto di Roma. Il prefetto di Roma, adesso la pagheranno, sì. Gabrielli. No, insomma, voglio dire, ci vuole una... Che frase è quella del prefetto Gabrielli? La pagheranno. Se vuole il mio commento è questo. Il metodo mafioso, certamente al buon Gabrielli puoi dire tutto tranne che sia colluso con la mafia. Però questa è una frase mafiosa, la pagheranno. Però questa è una frase tipica del metodo, non mafiosa, del metodo mafioso. Del metodo mafioso, vabbè, una frase tipica dei mafiosi, dai. Se lo dice lei, se ne attribuisce. Ma non è che lo dico io, avvocato, lei dice una frase tipica da metodo mafioso, chi è che usa il metodo mafioso? I mafiosi. È una frase che connota il metodo mafioso. È una frase tipica del metodo mafioso. Benissimo, va bene, grazie avvocato, molto gentile. L'intimidazione è questa. Molto, è una frase intimidatoria? È un segnale intimidatorio. Segnale intimidatorio. È una minaccia. Secondo lei è una minaccia o no? Dire la pagherei. Sì, è una minaccia. È una minaccia, però diciamo non si può pensare che Gabrielli usi le armi, diciamo. È una minaccia. No. Va bene. È una minaccia vera e propria. Grazie avvocato, grazie, molto gentile. Prego. Grazie, arrivederci. Pubblicità. La Zanzara. Amici miei, siamo al flop. Serafino da Ravenna, 800 24 00 24. Serafino. Buonasera, dottor Cruciani. Dimmi, caro. Senta, lei ha presente la telefonata dei due costruttori, sì, che si fecero la notte del terremoto di L'Aquila? Sì. Quando, come no, ridacchiavano, sì, certo. Bene. Allora, secondo me, sì, lei il giorno che è rientrato dalle ferie, il, sì, primo settembre... No, il 31 agosto era... Comunque, uguale, dai. Prego? Era il 31 agosto, sì, sì. Ecco, secondo me lei ha fatto di peggio, sì, molto di peggio, e per questo motivo io la sera stessa ho scritto, sì, al presidente degli ordini dei giornalisti di Milano denunciando, sì, il fatto e sperando in qualche sanzione. Ma cosa ho fatto, scusi? Lei, allora, con tutti i suoi me ne frego, ad un certo momento ha detto, sì, perché un bambino muore di stenti, ma chi se ne frega? Anzi, mi viene l'acquolina in bocca a pensare il casino. Non ho detto così, ma non mi va di polemizzare con lei stasera, guardi, non mi va di polemizzare. Non ho detto così, ma chi se ne frega? E cosa ha fatto lei? C'è la registrazione. Sì, certo che c'è la registrazione. Cosa ha fatto lei, signor Serafino? A chi ha scritto? Al presidente dell'ordine dei giornalisti di Milano, dicendo queste testuali parole, perché lei ha detto queste, poi, sì, dopo non so se lei le abbia smentite, perché io ho spento la radio. Non devo smentire nulla, se non quello che, cioè, se si può ascoltare tranquillamente, ma guardi, non me ne frega assolutamente nulla di quello che ha fatto lei. Bravo, sa, il fatto, bravo, che lei abbia scritto all'ordine dei giornalisti, no, di Pinco, quello, Pallino, quello non me ne frega niente. Lei può fare quello che vuole. Non so, no, cosa, no, si auspica lei, che mi caccino, non so cosa si auspica. No, volevo semplicemente, lei con tutti i suoi me ne frego, sì, porta, lei alimenta tutti questi me ne frego anche di fronte, sì, a delle disgrazie tremende, sì, e secondo me lei fa un pessimo lavoro. E dunque? Però ci gioca, perché il fatto che lei permette a me questa sera di vivere queste cose vuol dire che prima la spara e poi dopo rende interessante la cosa, perché uno cerca di offenderle e così via. No, lei ha chiamato, io manco so perché ha chiamato, Serafino. Comunque, motivo, cosa bisogna fare? No, manco so, manco lo sapevo prima, dico. Non ho capito, Serafino, cosa bisogna fare? Dunque, non ho capito, allora, bisogna che qualcuno mi cacci, non ho capito, vado cacciato da qualche ordine, da qualche cosa? No, sanzionato. Sanzionato. Quando lei fa delle cose di cattivo gusto, sanzionato, molto cattivo gusto, con tutti i suoi me ne frego, anche di fronte delle disgrazie, sì, ecco, per me lei... Sanzionato, poi, bene. La gente discute di veste, eccetera, ma lei, senta, fa molto di peggio. Ma Marco da Milano, volte, grazie, Serafino, e chi se ne frega, l'ordine dei giornalisti, la lettera, comunque va benissimo, perché lei può fare quello che vuole, ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, anche di perdere tempo scrivendo lettere all'ordine dei giornalisti. Marco da Milano, evidentemente non c'è un cazzo da fare quello. Marco, non si sente Marco? Marco, niente, ma è Guido, provincia di Arezzo. Eccolo, buonasera. Dimmi. Ciao Cruciani, sei il più gran bastanco orario della radio, sicuramente. Sì, però alza la voce, no, e stacca Menico Olivari. Ti segnalo il ritorno di Ignazio Marino, eh? Il ritorno di Marino dove? A 8:30 ora, in diretta. Ah sì, beh certo, a 8:30, sì. Ma chi se ne frega di Marino a 8:30? Beh, insomma. Sì, il ritorno in televisione di Marino dalla Gruber, bene, certo non va da Vespa. Guido, dimmi. Eccolo, ti dicevo, sei il più gran bastan contrario della radio, comunque nel tuo genere sei un genio, non so se nel male o nel bene, ma comunque un genio. Io ti ascolto tutte le sere e comunque ti volevo dire che secondo me Casa Monica alla Porta a Porta là è un vero e proprio oltraggio. Oltraggio a chi, scusami? Oltraggio a chi? A tutti, alle persone di buon senso che vivono regolarmente la propria vita. Amico mio, ti sei offeso per il signor Casamonica, non mi ricordo chi, ospitato, no, da Parenzo? No, non ti sei, no, ti sei offeso per i Casamonica invitati in altre trasmissioni? Ti offendi quando i Casamonica vengono intervistati dai giornali? Non credo che ti offendi, no? Certo che ci si deve offendere. Perché va bene, dunque non vanno invitati secondo te? Cioè quando uno fa una cazzata... No, cioè... questa gente, ma tu devi pensare che questa gente hanno tolto... Tu dai la voce a questa gente quando questa l'hanno tolta, hanno tolto il pane, hanno tolto i soldi, hanno tolto la vita ad altra gente. A questa gente gli va tolto la voce. Gli va tolta, allora, la voce. Come, ma perché dire... la sua opinione, io la rispetto, io penso, sì, esattamente, certo, il contrario. Benissimo. Penso esattamente il contrario. Che ti dico... Giustamente è bene che ognuno. No, penso al contrario, anche perché ieri intervistando Vittorino Casamonica abbiamo appreso per esempio che il signor Vittorino Casamonica ha votato Marino, che era abbastanza sorprendente, no? No, ma allora dipende come le cose vengano fatte. Ma no, ovvio, ma questo no? L'abbiamo già detto 40 volte. Guido. Questa, la polemica oggi è solo su questo. Ma l'abbiamo già detto, Guido, vuoi? Che c'è da aggiungere? Ma io sono arrivato al punto di dire a tutte le persone che io conosco di buon senso di boicottare Vespa. Vabbè, ma Vespa non mi scuso. Addirittura questo boicottaggio non andrà da nessuna parte, Guido. Arrivederci. E per la seconda sera di seguito, Sara Paudicio, Miss France 2015. Cara Sara, come stai? Buonasera, buonasera. Eccoci. A tutti. Da dove, sei? Bene. Dove sei, Sara? Sono a casa. Vogliamo ricordare da dove vieni tu? Da Napoli, no? Sono di Portici, un paesino in provincia di Portici. Napoli. Hai vinto questo meraviglioso concorso che vorrei si trasformasse veramente in una cosa molto importante, Miss France 2015. A proposito, ma non ti piacerebbe andare a Miss Italia, scusami, Sara? Sicuramente. Ma ci andrai? Sicuramente. A questa edizione? Ah, può essere. Questa qua no, partecipante perché... no, è chiaro. No, perché il mio anno di Miss Italia trans, sì, sicuramente sì. Ma c'è qualche contatto per farti magari, non so, fare un'ospitata in questa edizione può essere di sì, è una sorpresa. C'è qualcosa, ti piacerebbe comunque andare lì sul palco con l'avventura? Certamente. Ma tu vuoi fare spettacolo nella vita, Sara? Anche. Che ti piacerebbe fare, per esempio? Tranquillamente, va bene, mi piacerebbe comunque condurre anche un programma televisivo. Ti piacerebbe comunque, condurre un programma? Sì, perché no? No, certo, non so, la tua aspirazione maggiore, quanti anni hai? 27 mi sembra, ieri ci hai detto. A 27 anni avrai una tua, no, un tuo obiettivo. È mio, sì, è uno dei miei sogni nel cassetto, proprio questo qua, di entrare nel mondo dello spettacolo. Parenzo, hai sentito che voce? Ha una voce fantastica, Sara. Grazie. Allora, io dico una cosa, Sara. Anche voi mi siete molto simpatici. Però, tanto. Sara non ci ha voluto dire ieri come si chiamava da uomo, ma potevi dire anche un nome finto. Che te frega, dicevi un nome finto. Siccome state insistendo, dai, ve lo dico. Come ti chiamavi? Salvatore. Salvatore. Salvatore. Beh, nome tipico delle sue parti, dai. Ma insomma, sì. È vero. Senti, ma tu come dire? Questa cosa di essere donna, quando l'hai capita da piccola, che età? No, io penso che sono nata così, perché io comunque quando ero piccola non giocavo con le Barbie e comunque quando ero piccola già comunque assumevo gli atteggiamenti di una donna. Ah, subito da piccola, sì, giocavi con le Barbie? Sì, infatti andavo a scuola, volevo indossare il gomilino rosa e mi compravo le Barbie, mi compravo comunque i giocattoli. Ma quello non vuol dire niente, anche Cruciani giocava con le Barbie. Ma io veramente non ho mai giocato con le Barbie, assolutamente no. Ma non c'è niente di male giocare con le Barbie, ma non giocavo affatto con io le Barbie. Ma io quando andavo a casa delle mie compagne di scuola giocavo con le Barbie, ad esempio, ma non... No, voglio dire, non è che giocare con le Barbie, mi invitavano le mie compagnette di scuola, le mie amichette. E tu quando eri piccolo ti volevi vestire da donna e ti truccavi, non penso. No, quello nemmeno io. Tu invece ti volevi vestire per forza da donna, no? Volevo indossare gli abiti di mia mamma, delle mie cugine, delle mie amiche. Ma non mi dire, però ieri mi hai detto una cosa, che tuo padre e tua madre hanno subito accettato questa cosa. Sì, io non ci credo a questa cosa, che subito hanno accettato questa cosa, Sara, dai. Sì, è vero. Cioè, non un pianto, una disperazione, un discorso. Aspetta, ascoltami un attimo. Dimmi. Mio padre, forse all'inizio, è stato un po' restio, ma da subito mi ha accettato e da subito mi ha accompagnato a fare il mio primo intervento. Mio padre mi ha accettato da subito. Il primo intervento che ho avuto mi ha accompagnato proprio lui a farlo. Che primo intervento hai avuto? Perché più interventi hai avuto? Ho fatto una rinoplastica, sì, ho fatto vari interventi. Ah, sì. Prima un po' di modernariato, sì, diciamo sì. Di modernariato no, per diventare un po' più per avvicinarti alla donna, diciamo, no? Sì. Per avvicinarti a profili femminili e poi successivamente l'intervento di cui abbiamo parlato ieri. Sono stato un po' crudo ieri, ma semplicemente perché veramente non lo sapevo, perché veramente non lo sapevo questa cosa qua. Non c'è niente di strano. Senti, ma tu sulla carta d'identità che c'hai scritto adesso? Io sulla carta d'identità sei già ancora un nome maschile. Ma non voglio dare la colpa a nessuno, è solo ed esclusivamente colpa mia, perché non sono andata a fare il cambio di documenti, perché io già ho la sentenza. È importante però, è importante. Sì, infatti in questi giorni sono vari appuntamenti. per cambiare tutto, ma non voglio dare la colpa a nessuno, attenzione. No, vabbè, però ti è solo ed esclusivamente colpa mia, perché sono stata un po' sbagliata. Senti, ma per cui tu ti vorresti fare una famiglia, ti vorresti sposare? Assolutamente sì. Tra l'altro non puoi nemmeno essere definita trans adesso, Parenzo, perché se vai a vedere bene, cioè la signora Sara non è più trans, è una donna a tutti gli effetti. Sì, non c'è dubbio. Diciamo io sono una donna transessuale, attualmente, però sui documenti sono una donna a tutti gli effetti. Però tu ti definisci una donna transessuale. Sì, ma è così. È così, no, è così. Senti, ma vorresti... vorresti essere transessuale perché non sono nata, se non sono una donna biologica, non sono una donna genetica, vai. Molti dicono che però gli uomini sono attratti dalla donna con il pisello, diciamolo. È vero anche. Il mondo di oggi, specialmente che siamo nel 2015, è un mondo molto colorato. Il mondo è bello perché è colorato. E non hai paura che gli uomini siano meno attratti da te adesso? No, assolutamente. Io penso che quando una donna è bella, parlo di anche bellezza interiore, attenzione. Sì, beh, penso certo, che bella è bella sempre, in tutti i modi, no? Sì, non c'è se una cosa ti piace sempre. Sì. Dunque, tu dici che comunque questa cosa per te era necessaria, non potevi rimanere uomo comunque. No, io mi sono felicissima. Io non di non avere più il pene. Bene, di non avere sicuramente, più. Sicuramente. Ma cos'era? Era una cosa psicologica oppure anche un ingombro era diventato? Tutte e due cose. Infatti, lui sapeva una cosa? Dimmi, di entrare in sala operatoria mi sono guardato e ho detto, vai via bastarda. Ah, così, vai via bastarda. Vabbè. Beh, è normale, uno vede questa roba qui come una cosa repellente quasi alla fine, no? Una cosa estranea a te, no? Sono davvero contentissima e auguro a tutte le ragazze come me di poter partecipare. Ma tu lo vorresti avere un figlio? Lo vorresti avere sì, un figlio? Assolutamente. No? Cioè vuoi farti una famiglia con un uomo, un figlio, tutto? Sì, adottare un bimbo, sì. Adottare perché non puoi fare figli, no? Non credo. Che ne so, non capisco niente. Ma gli ormoni, magari puoi fare figli, è diventata donna. Ah no, è vero, non c'ha le cose, sì, è vero. Ma manca l'apparato, diciamo. Vabbè, ragazzi, ho avuto un attimo di cosa. Che ne so, magari le tecniche moderne possono permettere anche di avere figli, che ne sai alla fine, no? Ma come fai a avere lui? Ma che sei, ma lui? È un uomo, sì, ho capito, è un uomo, va bene, ragazzi, dai. Vabbè, ho capito, ma che ne so, magari nel futuro, magari fra 100 anni si potrà fare, che ne sai? Sicuramente. Magari tra 100 anni si possa. Una persona che era uomo potrà fare figli naturalmente, come donna, che ne sai? È possibile pure questo. Comunque, vorresti adottare, no? Giusto? Sicuramente, sì. Adottare. Sicuramente. Dunque, sei favorevole al matrimonio, adozione gay, tutto. Sicuramente devo lottare per questi diritti. Per questi io ho vinto questo concorso, perché per me non è soprattutto. C'era Alba Parietti tra i giudici, attenzione. Sì. Sì, Alba Parietti, che c'è? Che ditemi che c'è? Ah, sì, facciamo un bel appello a Renzi per i matrimoni, dai. Facciamo un bel appello a Renzi perché sì, perché caro Presidente del Consiglio, io sono Miss Trans 2015. Affrettiamoci un po' con questi matrimoni. Sì, perché è giusto che comunque le persone dello stesso sesso oppure una ragazza trans possa, diciamo, sposarsi e adottare un bimbo, perché magari ci sono coppie etero che in cui i bambini vengono maltrattati, magari non vengono cresciuti bene. Magari certo. Ci sono più persone. Ma tu sei stata fidanzata o no? Io no, hai toccato questo. Sei fidanzata? No, io lo tocco. Mi sono lasciata da poco. Da poco con una persona che ancora vive nel mio cuore, è una persona molto importante. È un uomo che. Ma però, com'era? Sposata? Già, com'era? Sì, già non avevamo la carica. Amico mio, amica mia, dai, su, sposato. Ma il cuore non si comanda, sono cose che succedono. Ti sei appena lasciata? Giù. Va bene, Sara, ti abbraccio, un bacio, dai, a presto. No, che tristissima, sarà felicissima, adesso è libera. Miss Trans 2015, grazie Sara, ciao, a presto. Ciao, ragazzi, ci sentiamo domani alle 18.30. Simone, provincia di Livorno, Agostino di Piacenza, Paolo da Roma. Andatevene a fanculo, va, ciao, a domani. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.